Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. I funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Sono le 9:06. Senti qui, cara Veronica. Ma chi è che parla? Sono Alessandro Milan, sono ma sempre io. Ma caro Alessandro Milan, senta, lei se ne vada di lì e faccia tornare Alessandro Milan. Ecco, esci da Milan. Allora, sto benissimo. Ma è terribile, ma come ti sei ridotto? No, sembri la signora delle camelie. È tutto a posto, è tutto sotto controllo, sotto stretto controllo. È bastato lasciarti solo un attimo e guarda come ti sei ridotto. Cari amici funamboli, alle 9:07 inizio, alle 11 chissà se finisco. Vabbè, così però è una cosa straziante. Vuoi chiedere delle donazioni? Oggi siamo in tema, dai, chiediamo un contributo di solidarietà per Alessandro Milan e il suo aerosol. Fatemi salutare. Che c'è? Che c'è? Sono il signor Wolf. Risolvo problemi. Va bene. Signor Wolf, ci aiuti? Ci servirebbero dei farmaci da mettere nell'aerosol di Alessandro Milan. No, non so se questi problemi li risolve. Comunque, vogliamo salutare tutti i nostri funamboli che a partire dalla nostra redazione. C'è Peter Mescapè in regia, c'è Elisa Pancaldi, c'è Elisabetta Fusconi, c'è Lorenzo Nespoli. Là corrono, saltano. Quando, cara Veronica, quando li vedi al di là del vetro che corrono e saltano, vuol dire che devi iniziare a prendere tempo, perché c'è qualche problema. Corrono, aprono gli studi, chiudono le porte, si arrabattano, saltano, fanno le capriole. Dici che c'è qualche problema perché oggi puntano tutto sulla tua voce melodiosa. No. E quindi. Di niente nessuno. Oggi parleremo di tantissime cose. Intanto più avanti parleremo del terremoto. Ti ha colpito questa cosa, dei moltissimo. Tuoi concittadini? C'ho questa notizia in canna, però adesso so che andremo ad affrontarla nell'arco della puntata. Insomma, Amatrice arriverà nell'arco della puntata, quindi non anticipiamo troppo. No, però dai, diciamo almeno in prima pagina del Messaggero che ci sono i tuoi concittadini di Roma che hanno preso la residenza. È abbastanza scioccante che hanno chiesto la residenza nella città di Amatrice pur essendo residenti a Roma, o semplicemente persone che avevano la residenza ad Amatrice però abitavano a Roma e non hanno ritenuto doveroso informare che non fosse così e di non aver bisogno del contributo di solidarietà. Altro che defurbizziamoci. Capisci? La nostra rubrica dei furbetti, Stavo altro pensando che veramente a questo ieri. Proprio noi facciamo defurbizziamoci con candore con la signora che ha studiato inglese invece del tedesco, e tra l'altro poi oggi ritorneremo a un altro aggancio col defurbizziamoci con un'altra notizia che andremo a trattare. Siamo proprio sul pezzo. No, ma diciamolo, perché noi facciamo questa rubrica defurbizziamoci, facciamo raccontare le vostre furbate e per esorcizzare i furbetti del quartierino, ma in Italia mi sa che sono tanti. Però, cara Veronica, dobbiamo partire tanti. Dalle tasse. Allora, vi chiediamo banalmente, chiamateci all'800 24 00 24, vi chiediamo secondo voi qual è la tassa che percepite come quella più inaccettabile, quella più odiosa, quella che proprio non vi va giù. Noi vogliamo infondervi il buon umore la mattina, capito? Noi vogliamo farvi sentire vivi e felici. Scriveteci anche al 349-238-6666, perché partiamo da una donna, una vera funambola, perché per alcuni è già diventata un mito nella battaglia contro il fisco, contro lo Stato italiano. Ribattezzata Davide contro Golia. Esatto, partiamo da lei a raccontare questa storia. Finché la barca va, non potevamo, cara Veronica, che cominciare da qui. Io mi sono anche legata per non cantare e non fare niente, sto ferma. No, salutiamo l'usignolo di Cavriago, Rietta Berti, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. E grazie, bene, grazie di essere qui a Radio 24. L'abbiamo tra l'altro sottratta dalla registrazione di Masterchef VIP. Sì. pare e che... allora sono qui che aspettavo proprio la vostra telefonata. È pronta poi ad andare a cucinare, quindi non certo. perdiamo tempo. No, perché Orietta Berti qualche giorno fa è davvero assurda le cronache, perché ha sconfitto, grazie al suo avvocato ovviamente, in Cassazione, dopo che i primi due gradi erano andati male, se ho capito bene. Sì, i primi due casi erano andati male. Lo Stato che le deve restituire l'IRAP, la tassa regionale istituita nel 98. Vent'anni di IRAP. Vent'anni di IRAP che le ha pagato. Quanto ha pagato intanto? Lo sa quanto ha pagato e lo Stato le deve ridare? Dunque, io non, queste cose sono cose amministrative che si pensano il commercialista e l'avvocato, però in un primo tempo mi hanno restituito un quarto di questa somma e poi non si sa perché l'altra rimanenza non la volevano restituire. Per questo anche l'avvocato ha fatto la terza telefonata, dopo i due no. Sì, è andato in Cassazione, insomma, sì, è andato avanti fino alla fine. Sì, in realtà il misunderstanding nasce attorno al fatto che pensavano che lei fosse un'impresa, un'azienda. Esatto, invece io ho sempre avuto dei collaboratori occasionali, in questo lavoro si lavora così, insomma, si fa una serata, un concerto in Calabria, lì c'è un collaboratore, si fa una serata magari in Lombardia, c'è un altro collaboratore. Non è che negli anni uno ha sempre gli stessi collaboratori, anzi. Quindi cioè, il punto no, occasionali di stagione in stagione. Infatti chiariamo questo, cioè la Cassazione le ha dato ragione perché lei non deve versare l'IRAP perché non ha un'impresa strutturata ma ha collaboratori occasionali. Il esatto. suo avvocato è riuscito a dimostrare sì. questa cosa. Sì. Beh, comunque che il fisco si sia sbagliato, considerando che parliamo di una donna che ha venduto 15 milioni di dischi, che l'abbia presa per un'impresa, ci sta, insomma. Il problema è questo, cioè come invece lei si è appoggiata e si appoggia a sì, collaboratori. Ma non è che l'ho fatto con rabbia, l'ho fatto perché mi sembrava che fosse un'imposta che non mi era dovuta. Mi sono comportata come qualsiasi cittadino, insomma. E quando sente di avere ragione. No, questo è un punto fondamentale, cara signora Berti, perché alcuni hanno detto: vabbè, ma insomma poteva pagare, visto. Ma se uno ritiene che un diritto gli sia dovuto e non deve dare qualcosa che non è dovuto allo Stato, certo, lei ha avuto la forza con i suoi avvocati di andare fino in Cassazione. Però come dire. Sì, ma guardi, le tasse è doveroso pagarle, perché se noi usiamo i servizi pubblici. Quindi io poi insomma sono contenta di pagarle, perché in passato e anche recentemente ho avuto bisogno dell'ospedale, insomma sono servizi che ti fanno poi comodo e piacere, perché certo. tu sei curata, accudita, insomma grazie anche alle tasse che paghiamo. Ma voglio dire, ci sono delle persone che non hanno questo privilegio e quindi sono persone che magari se non ci fosse questo obbligo di pagare che i servizi pubblici pagano per te, insomma queste persone come si troverebbero? Sì. Come in tanti stati però che sono all'estero, che sono... Lei ha dovuto avere molta pazienza, perché ha dovuto arrivare al terzo grado di giudizio e per esempio come battaglia legale è stata molto costosa questa da fare, da portare avanti? No, devo dire che sono stati molto onesti, perché avevano visto il caso che in un primo tempo era andato bene, poi dopo si era interrotto e quindi hanno detto: beh, noi facciamo così, insomma, la parcella è stata molto molto onesta. È stata onesta. Vabbè, ma insomma, Orietta Berti si sente un po', l'hanno dipinta Davide contro Golia, cioè ha combattuto contro lo Stato, l'Agenzia delle Entrate. Non è neanche la prima artista, in passato leggevo che anche Michel Hunziker è riuscita. Milena Vukotic, Bianca Balti, tanti ce ne sono stati, quindi... Sì. Sì, appunto, perché non ero l'unica, quindi tentar non nuoce, no? Tentar non nuoce, straordinaria questa. Tentar non nuoce. Però ha ottenuto questa vittoria. Che dobbiamo... Soprattutto perché di tasse che vanno pagate ce ne sono tante. Pagare quelle che non andrebbero nemmeno pagate, giustamente, diventa veramente oltre il danno la beffa. Quindi uno dice no. Sì, perché insomma non sono mai stata un'impresa, ho sempre camminato con le mie gambe e con l'unica forza era la mia voce e il pubblico che mi è sostenuta, perché non ci fosse stato il pubblico dopo 50 anni non sarei ancora qui. Eh beh, Un'ultima cosa, ci sono molte persone che dicono: è chiaro, ma io non mi chiamo Orietta Berti, non sono in grado di portare avanti una battaglia del genere, 20 anni. Invece dice, se la tassa non è dovuta in vita, come dire, tutti perché, quanti. Perché poi non è detto che lo Stato sia sempre così, insomma, in conflitto, insomma, è anche collaborativo a volte, no? Penso io, insomma. Beh, in questo caso infatti nei primi due gradi non è stato molto collaborativo, però quello che conta è il finale, è il finale. Esatto. Tra l'altro, cara Veronica, noi dobbiamo salutare Orietta Berti che deve andare appunto a registrare. Dicono, dicono che sia tra le favorite, non lo diciamo, che sia tra le favorite di MasterChef VIP, ma non lo diciamo, no, noi non l'abbiamo detto. La prossima volta la invitiamo a pranzo invece che in trasmissione e vediamo, anzi ci auto invitiamo a pranzo. Esatto. La ringraziamo moltissimo. Grazie moltissimo. Orietta Berti che è stata grazie con noi e complimenti. Che dire, tra l'altro ha ascoltato tutto Paolo Zabeo, che è con noi, è il coordinatore dell'ufficio studi da CGA di Mestre. Buongiorno Zabeo, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie di essere qui. Guarda Veronica, arrivano dei messaggi. Allora, la tassa più odiosa, vabbè, c'è chi dice ogni tassa è odiosa, c'è chi dice il canone della RAI, c'è chi dice pagare l'IVA sul GPL per riscaldare la casa, l'accisa sulla benzina, mia moglie, il bollo e il canone TV. Credo che la prima non sia proprio una tassa, ma viene quello, diversamente tasse, ne abbiamo tante diversamente tasse. L'IVA, il bollo auto, ognuno ha la sua tassa più scusami più la tua tassa qual è? Abbi pazienza però, diccela. Beh, certo, devo dire che il canone della RAI è un po' così, un po' percepito forse da tutti gli italiani come una delle più resta un po' sul groppone, resta un po' sul gozzo. Sì. Non so, Zabeo, voi avete ogni anno dite anche quante sono le tasse, quante ce ne sono anche di assurde, eccetera. Avete anche un'idea di quella che è percepita dagli italiani come la più odiata? Sì, per quanto riguarda gli imprenditori, sicuramente l'IRAP, la accennavate prima, è stata anche al centro praticamente della disputa tra Orietta Berti e il fisco. E questa è una tassa veramente che penalizza moltissimo le aziende, soprattutto le piccole, quelle che sono poi la stragrande maggioranza della nostra platea, diciamo così, e che danno lavoro al un numero importante di lavoratori dipendenti. Mentre per quanto riguarda i cittadini comuni, ci ricordiamo la TASI, cioè l'imposta che era sulla prima casa, fortunatamente è stata tolta, c'è però ancora adesso l'IMU che grava sulle seconde e terze case. Ecco, credo che l'imposta sui propri immobili sia forse la più odiata, perché insomma, per quanto ci riguarda come italiani, insomma, la casa, anche la seconda casa, è vista come una forma di investimento, lì spesso praticamente vengono investiti i nostri risparmi, quindi dover pagare annualmente imposte molto, molto salate, insomma, questo la rende molto odiosa. Tutti noi. Molto odiosa, le case, insomma, siamo un paese molto patrimonializzato sulle case, cara Veronica, tu e le tue quattro case, si sa le tasse che devi pagare. Purtroppo io, avendo i miei vari possedimenti, pago delle cifre molto esose. Adesso ironizza su questo, però quante sono le tasse? Ieri leggevo sul Quotidiano Nazionale, ce ne sono un po' di strane, ecco, versioni tipo la tassa sui gradini, ho letto. Se uno ha una casa con dei gradini che insistono sul suolo pubblico, pagare, caro Zabeo. Oppure noi abbiamo potuto monitorare che il nostro sistema tributario è, diciamo così, molto frammentato, nel senso che sono almeno un centinaio le principali. Però abbiamo visto che tutto questo si accompagna a un fatto, cioè che il gettito invece è estremamente concentrato in poche voci. Cioè le prime 10 tasse garantiscono l'85% circa del totale del gettito tributario nazionale. Quindi vuol dire che abbiamo un sistema estremamente parcellizzato, ma poi alla fine della fiera, insomma, sono poche, una decina, poco più, quelle che garantiscono il gettito allo Stato. Quindi bisognerebbe sforbiciare, bisognerebbe in qualche modo rendere più semplice il nostro sistema fiscale, perché è un grosso problema sia per quanto riguarda i contribuenti, ma anche per chi in qualche modo sostiene i contribuenti. Pensiamo ai commercialisti o alle associazioni di categoria che sono a fianco agli imprenditori. Sì, che è complicato. Detto questo, possiamo sicuramente dire che insomma gran parte del nostro fisco è inutile, c'è un'assurdità estrema, e giustamente come ricordava lei c'è la tassa sull'uscita di casa, cioè che colpisce coloro che magari hanno un gradino o più, diciamo così, sull'area, sulla strada pubblica. È una variante della TOSAP, cioè la tassa sull'occupazione del suolo pubblico. Esatto, ma la tassa sull'ombra che cos'è però, scusatemi? È la cosa più folle che si era potuto pensare. Ricordiamo, sono tutte tasse locali, comunali, quindi da questo punto di vista possiamo dire che i sindaci praticamente la diciamo così, non manca sicuramente la fantasia. Ecco, no, infatti l'85% sono quelle grosse, importanti, il resto è 15% è fantasia, così uno va sì, a estro. Perché ad esempio la tassa sull'ombra è quella che colpisce coloro che ad esempio hanno una piccola attività, mettono una tenda per pararsi dal sole e quindi l'ombra. Sostanzialmente sono costretti praticamente a pagare. Lì qual è il principio? Esatto, cioè fanno ombra e quindi occupano il suolo pubblico, no, con l'ombra. Cioè, comunque la tenda finisce sull'area pubblica, diciamo così, e quindi sostanzialmente sei chiamato a pagare, ma non solo, addirittura alcuni comuni hanno messo la tassa sullo giardino, nel senso che mette lo giardino fuori dal negozio, magari col logo della propria attività, è costretto a pagare anche lì. Cara Veronica, la bizzarria è molto diffusa. Qui è l'estro legislativo, no? Uno dice, ma oggi che cosa faccio? Mi invento la tassa sullo zerbino. Sì, ma è così, praticamente questo è un paese delle mille tasse, tra l'altro una situazione assurda che spesso poi queste tasse garantiscono un gettito molto molto contenuto e addirittura le spese di esazione piuttosto che quelle di attività di controllo sono superiori a quanto si incassa, quindi sarebbe bene tagliarle, eliminarle e rendere la vita più facile a cittadini e piccoli imprenditori. Però guardate, ci sono tanti ascoltatori, poi Zabeo ci deve dire qualcosa anche di Orietta Berti che l'hai ascoltato. Sentiamo però Mariuccia che ci chiama all'800240024 da Seveso. Buongiorno Mariuccia. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Sì. Allora, tra le tasse che odio, quella particolare che paga mio marito è l'IMU su un terreno sfrattato dalla Pedemontana, che purtroppo non ci hanno ancora pagato, ci è andato solo un tot. Sì. Non è più nostro perché effettivamente ci hanno costruito la galleria e non possiamo nemmeno mettere piede o coltivare. E dovete pagare l'IMU? Noi dobbiamo pagare l'IMU e più dichiararlo sul 7,30. No, è straordinario, c'è la Pedemontana, quindi la strada, vi hanno espropriato, vi hanno tolto una parte di terreno e voi pagate, quindi non è più vostro ma pagate l'IMU comunque. Esatto, siccome non ve l'hanno ancora fatto il contratto che è diventato loro, chiaro. Risulta ancora intestata a noi e come noi... Non ci sono male. Tutti i cittadini che hanno dovuto lasciare questo terreno, non siamo solo noi. Ma non si può fare ricorso, Mariuccia, in qualche modo? Cioè... Vai, auguri. Guardi, non lo so, fare ricorso quando si va contro lo Stato non si riesce. Io ho provato a chiedere più volte in comune mi hanno detto... Chi è l'intestatario, chi è il proprietario, se voi non pagate, Pedemontana non paga, il comune rimane senza soldi. Esatto. Finché risultate formalmente i proprietari voi, pur non avendo accesso al terreno, dire, l'agenzia delle entrate viene a bussare a casa vostra. Ma se è non per si questo. Purtroppo adesso che è stato chiesto il fallimento Pedemontana, non si sa come andrà a finire. È vero. Che è devo vero. Dire, noi siamo riusciti ad avere una percentuale perché abbiamo già messo un avvocato, però abbiamo penato, stiamo pagando ma infatti anche l'avvocato. Per avere un acconto. Per questo io chiedevo quanto sono le spese legali a Orietta Berti prima, perché in questo senso qualcuno dice io non sono Orietta Berti, nel senso che uno rischia di spendere delle cifre esorbitanti per un contenzioso con lo Stato e poi non sai nemmeno come andrà a finire. L'avvocato si farà pagare, giustamente, per il suo lavoro. Però grazie Mariuccia. Andiamo a Viterbo da Maria. Buongiorno Maria. Buongiorno Alessandro, eccoci. Buongiorno Veronica. Grazie per avermi chiamato. Allora, io non capisco una tassa che mi arrivava con Equitalia fino all'anno scorso. Equitalia fortunatamente è stata abolita e arriva lo stesso. Per il consorzio di bonifica Valtevere, perché abbiamo dei terreni a 4-5 km di distanza dal Tevere e noi dobbiamo pagare il consorzio, non ricaviamo nessun beneficio, non so a chi vada, penso che sia un residuo di balzelli medievali. Credo, guardi, che Zabeo forse sulla questione delle bonifiche sono tra le tasse più. Zabeo ha una adesso risposta. Adesso ce lo facciamo spiegare perché. Grazie. Zabeo ha una risposta all'ascoltatrice sulla questione bonifiche. Sì, sul consorzio di bonifica, che questa è una tassa, non dico medievale, è una tassa giusta per certi versi, nel senso che le attività di pulizia dei fossi, dei canali, dei fiumi dovrebbe essere praticamente una costante nel nostro paese, quindi in qualche modo di rendere, diciamo così, meno meno drammatico quando si verificano dei fenomeni che purtroppo si arrivano sempre più spesso, che è quello delle queste piogge intense che caratterizzano soprattutto il fine estate e l'autunno. E poi però scopriamo che si continua a pagare, ma i lavori di manutenzione non vengono fatti. Questa è un'altra, è un'altra partita. Però ecco, tra le tasse, quelle più folli, se vogliamo passare il termine, noi abbiamo definite paleotasse. Ricordo che ognuno di noi comunque, non dico quasi ogni giorno, ma sicuramente quando andiamo a fare il pieno di carburante alla nostra autovettura, siamo chiamati a pagare attraverso le accise, certo. Ancora la guerra di Abissinia del 35, la crisi di Suez del 56, quelle le vanno subito, le fanno subito a ritoccare, eh? Ogni volta che devo far cassa l'accisa sulla benzina è un gran classico. Ma voglio dire, noi continuiamo a pagare di disastri, di eventi di 50-60 anni fa che ormai sono stati superati, ormai praticamente hanno una lunghissima memoria storica, le tasse sulla benzina. La memoria storica ce l'hanno soprattutto il fisco, perché ce la continua a far pagare. Sì, una volta che un'accisa viene messa non viene mai tolta. Paolo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, e sono solidale con te Alessandro, con la voce un pochettino così oggi. Beh, ma guarda, siamo in tanti. Facciamoci forza. Un'altra signora delle camelie ha chiamato. Capiterà anche alla tua co-conduttrice. Sto già abbastanza acciaccata di mio, per favore. Allora, io volevo invece chiedere al vostro ospite che parlai con il servizio clienti dell'energia elettrica per chiarimenti su bollette, e mi spiegarono che tra l'altro noi pagheremmo un euro ogni 5.000 kilowattora per finanziare quei comuni che hanno deciso di ospitare centrali nucleari. Il problema qual è? Che in Italia non ci sono, ancora centrali nucleari, ci sono però le scorie preventive, non lo so. Quindi... oppure ci sono le scorie nucleari da smaltire. Zabeo, cos'è sta storia che si paga per le, per le città che vogliono ospitare le centrali nucleari? Ne ha sentito? Sì, giustamente, come ricordava radioascoltatore, ma le città che hanno le centrali nucleari non ce ne sono più, però c'è tutta l'attività di smaltimento delle scorie, di riqualificazione di quelle aree che in qualche modo va sostenuta. Ovviamente, come non certo riducendo le spese dello Stato, che gli sprechi, gli sperperi, ma diciamo così, introducendo nuove tasse, e questo praticamente è un modo per far cassa, un modo per giustificare cose che in realtà non sono giustificabili. In ogni caso, caro Paolo Zabeo, cara Veronica, devo dire che c'è un'indignazione collettiva sulla tassa, sulle insegne e sulle indicazioni stradali. Eh sì. Leggo più messaggi di Zabeo gente basita. No, ma abbiamo chiesto un commento su Orietta Berti, cioè ha fatto bene ad andare avanti, e poteva farlo perché si chiama Orietta Berti, e quindi insomma con 15 milioni di dischi magari lei si concentrava ad altri, diceva agli avvocati andate avanti, procedete, e magari no, il cittadino... Voglio dire, il fisco su questa questione delle attività che non sono strutturate e quindi conseguentemente non sono chiamate a pagare, a non dovrebbero essere chiamate a pagare l'IRAP, si è aperto ormai un filone che vede i ricorrenti sempre più vincitori, ci sono molti imbianchini piuttosto che tassisti eccetera che l'hanno fatto, e non avendo appunto queste strutture organizzate sono stati restituiti l'IRAP. Ovviamente Orietta Berti è un contribuente importante, sicuramente si avvalsa anche di tecnici, molto avvocati bravo, commercialisti di grido che sanno fare il loro mestiere. No, sa perché glielo chiedo? Sa perché glielo chiedo a Zabeo? E qui Veronica, perché si aggira il nostro funambolo Leonardo Maniera da questa mattina e dice io l'IRAP invece potrei non pagarla, ma il mio commercialista mi ha detto ma dai, pagala lo stesso. E infatti è così, buongiorno. Oggi è addirittura intervenuto prima. Un'amarezza totale. Tutti quelli che fanno... Davanti a questo dolore è intervenuto prima. Perché tutti quelli che fanno spettacolo in realtà non hanno un'attività produttiva, non hanno il capannone con le macchine, quindi... come te, però tu la paghi. Sì, perché il mio commercialista ha detto in teoria non la dovresti pagare, però dai, non stiamo lì a fare pagala e basta. Perché il mio commercialista è un po' pigro, quindi... il commercialista pigro, capisce Zabeo, il nostro Manera, cioè, sei grande e grosso e Orietta Berti ti ha fregato, Leo. È così. È colpa del mio commercialista che ha saluto mio amico d'infanzia, siccome io non me la prendo con lui perché è mio amico d'infanzia, lui dice paghiamolo e va avanti così il carrozzone. E a lei. Va bene, dai, noi dobbiamo ringraziare Paolo Zabeo. Tra poco, prima che arrivi Manera, cara Veronica, ripartiremo, avremo il vice sindaco di Amatrice. Una vicenda. Scusami, tu non vuoi che io ti elenchi tutte le tasse che dobbiamo pagare ad ottobre prima di chiudere? No, per mettervi una botta di allegria, con IRPEF, IVA, IMSS, chi c'ha la voluntary disclosure, chi ha rottamato le cartelle, il modello 7. Cioè, No, se volete, no, vado avanti. No, eh? Guarda, no. Poi dopo arriva già Mauro Meazza che ci dà queste mazzate così, così alle 11. Tra capo e collo. Esatto. Allora, tra poco col vice sindaco di Amatrice c'è una vicenda che riguarda la sua casa, proprio la casa. Però, cara Veronica, approfitteremo anche di chiedere di questi romani che avrebbero preso la residenza lì ad Amatrice per farsi dare i contributi, incassare con residenze falsificate i contributi. Altro che defurbizziamoci, ragazzi. Ah. Tra poco. I funamboli. Carissimi funamboli, buongiorno. Io la tassa che odio di più in assoluto è il canone della Rai. A Genova abbiamo la tassa sull'ombra. Se mettiamo una tenda alla vetrina del negozio, la tenda fa ombra ed è come se fosse un'occupazione di suolo pubblico, in realtà. When you don't need to worry, there'll be days like this. Io la tassa che odio di più sono tutte le tasse. Vabbè, per non sbagliarsi, cara Veronica. Sì. Allora, ci scrive Gianni da Udine. Guarda, la giro a te come considerazione, visto che sei di Roma. A Udine ci fu un terremoto devastante. Insomma, certo. I friulani, giustamente, si sono sempre piccati di dire con merito abbiamo ricostruito tutto. E chiede polemicamente Gianni da Udine: c'è qualche friulano per caso che ha chiesto la residenza da Amatrice? Vabbè, su questo mi sembra lo so, abbiamo toccato mi la sembra romanità una generalizzazione insensata e purtroppo sappiamo, io la definisco una forma sofisticata di sciacallaggio questa. Come che no? È stata fatta. Ma perché è così. Purtroppo lo è esattamente, è no? Come quando ci sono i saccheggi o nelle situazioni già precarie, quando ci sono stati dei drammi, delle catastrofi naturali. Infatti ti dicevo, la cosa abbastanza sorprendente, per non dire agghiacciante, è che sappiamo che quando c'è stato il terremoto le persone che si trovavano ad Accumoli Amatrice erano 2500, no? Di cui 2000 erano in vacanza. Dopodiché i sospetti sono nati perché c'è stato un picco delle residenze in questi luoghi, mai stati così gettonati come dopo il terremoto. Ma come racconta oggi il Messaggero, perché queste residenze? Perché per intascarsi fino a 900 euro al mese stanziati dalla Protezione Civile, ragazzi, è come rubare in una casa terremotata, forse più grave, anche forse anche più grave. Cioè, 400 euro per una persona, 500, 700 per i gruppi, per le famiglie composte da tre persone, 800 ai nuclei di quattro, e così a crescere. E quindi diverse persone hanno ritenuto, chi in maniera più passiva, appunto semplicemente non spostando la residenza, dicendo di risiedere altrove, e qualcun altro richiedendo appositamente la residenza lì. Pare che alcuni adesso, per evitare guai, abbiano già restituito indietro i soldi, sperando di non avere problemi legali. La procura indaga un po' troppo tardi. Questione che fa il paio con l'altra faccenda che andremo a trattare, che è stata quella degli SMS solidali e di che cosa è successo di quei soldi. Vogliamo salutare il vice sindaco di Amatrice, che ringraziamo, e qui con noi è Patrizia Catenacci. Buongiorno vice sindaco. Buongiorno. Allora, buongiorno, intanto noi l'abbiamo anche chiamata per una sua vicenda personale che adesso chiariremo, però è vero, risulta anche a voi, la procura indaga su false residenze falsificate di cittadini che si sono messi lì ad Amatrice, dicendo vivo qui falsamente per prendersi i soldi? Guardi, io ho letto con voi, credo, le dichiarazioni del procuratore Saieva sui giornali. Sì. Anche stamattina presto ho letto anche che rettificava il fatto che fosse l'indagine fosse stata aperta per i CAS, quindi per il contributo di autonoma sistemazione, e non per le soluzioni abitative di emergenza. Però l'ho letto sui giornali come voi. La letta, veramente non ho altre notizie. Ci aiuta a capire, guardi, c'è il cellulare, tra l'altro, che la linea non prende benissimo se lo tiene vicino. Ecco, adesso la sentiamo meglio. Questa invece vicenda degli SMS che il sindaco Pirozzi ha tirato fuori, poi dopo la procura ha detto un po' una bolla di sapone. Allora, ci sono dei soldi che sono, non dico spariti, ma stati dirottati altrove, oppure no? Ma i soldi non sono spariti, non l'ha mai detto il sindaco Pirozzi. Lui l'ha spiegato bene. In pratica il suo canale, la sua denuncia è stata rivolta al fatto che si andasse così a ledere un po' la fiducia e il sostegno di una comunità solidale, no? Che quando c'è Italia, diciamo, un evento di tipo disastroso come un terremoto, un'alluvione, comunque gli italiani sono sempre molto generosi e fanno convergere, diciamo, i loro risparmi anche con gli SMS. Quindi, come dire, se si è fatta una pubblicità all'epoca, no, sul terremoto di Amatrice e Accumoli che sono schienate dal territorio, non c'è proprio più nulla, e si può vedere, insomma, da tutte le vostre immagini, anche sulle televisioni, in qualche modo si è andato a non rispettare, diciamo, la volontà popolare. Tutto qui, chiaro che quello che è stato deciso poteva essere deciso, quello che è stato fatto poteva essere fatto, e i soldi non sono certo spariti. Però mi scusi, vice sindaco, lei non trova che da come è stata posta la questione dal sindaco Pirozzi, anche in un contesto, sappiamo, propedeutico ad un'eventuale candidatura, possa invece rischiare di ottenere un effetto boomerang, che è quello che le persone che hanno donato sulle prime, sentendo la notizia così, possano demotivarsi e non essere più incentivate a mandare dei soldi per le zone terremotate? Ma guardi, non glielo so dire, comunque andava detto, nel senso che sono cose che succedono più o meno dopo tutti. Ricordo ancora gli articoli del Fatto Quotidiano, dopo il terremoto dell'Aquila. Insomma, è chiaro che sono argomenti che stanno molto a cuore, no, alla popolazione. Sì, non c'è mai una gestione mega trasparente quando succedono queste tragedie. Questo lo sappiamo. È che si è parlato di scelta scellerata, no? Allora, scellerata chiaramente dava già una connotazione. Può essere un suggerimento, insomma, ovviamente, ma proprio per tutelare questa forma, no, di solidarietà. Perché sono pian piano, poi negli anni, evento disastroso dopo evento disastroso, per erodere la fiducia, no, della popolazione. Questo è il rischio. Insomma, un po' tutto qui, poi vedremo come va. Però vice sindaco, noi l'abbiamo chiamata anche per questa vicenda personale. Ieri su Repubblica c'era un'intera pagina che la riguarda, perché c'è anche una foto che è abbastanza impressionante. Veronica, l'avrei vista anche tu. Sì, c'è questa foto dall'alto di tutte le case distrutte da Amatrice, e l'accusa è: solo una casa è stata salvata, puntellata a spese dello Stato, la casa del vice sindaco di Amatrice, Patrizia Catenacci. Allora, vice sindaco, ci spieghi la sua versione intanto dei fatti, perché qui abbiamo letto polemiche, vicini di casa che dicono: ma come, la sua sì e la nostra no? Ma guardi, nel centro di Amatrice c'erano diversi palazzi storici, purtroppo sono tutti crollati. Amatrice ha avuto 5 eventi sismici molto forti. La mia ha resistito a tutte le scosse, nonostante la violenza, diciamo, di tutti questi sismi, e quindi la verità è che è l'unico edificio storico vincolato che è stato puntellato, perché è l'unico che nel centro storico è ancora in piedi. D'altronde ad Amatrice i puntellamenti sono anche iniziati molto tardi, quindi si immagini, noi abbiamo avuto scosse non solo ad agosto, no, ma a ottobre, a gennaio, ed è stato anche abbastanza difficile raggiungerle, no, questi luoghi, diciamo, perché poi sono vicoli. Amatrice è fatta di molti vicoli, quindi sono stati per molti e molti mesi coperti di macerie, per cui non si potevano neanche raggiungere, no, questi palazzi. E quindi lei dice: è stato puntellato solo il mio, perché è l'unico che è rimasto in piedi ed è un edificio storico. Ma oltretutto dovrebbe avere un valore, io ho capito, no? C'è questa, si discute di questo fregio in pietra bianca che c'è e che dovrebbe avere un valore storico-culturale. Ma guardi, nell'articolo si fa molta confusione, sì, e ci sono molte cose non vere. Per esempio, proprio questo fregio di cui lei parla, no? Il filtro di sospetti, un fregio fatto passare come stemma di famiglia. Sì. Beh, innanzitutto non è un fregio di famiglia, perché io la casa l'ho comprata, quindi non era dei miei avi. La ristrutturai dopo che l'ho comprata, e ho avuto particolare attenzione, ovviamente, a non pregiudicare tutti gli elementi storici, no, che erano all'interno della casa. E quindi la sovrintendenza, non è vero che ha riconosciuto il valore storico in virtù del fregio, ma basterebbe leggere il decreto di concessione del vincolo, ma su tutta l'architettura dello stabile, tanto che il decreto ne cita ciò che è all'interno, ciò che è all'esterno, ciò che è il piano terra, ciò che è il piano primo. Insomma, dico, tanta confusione, bisognerebbe solo leggere gli atti. Quello che emerge, e che qualcuno forse ha voluto far notare, stona un po', è che capisce che nel momento in cui una casa viene puntellata ed è quella di un membro dell'amministrazione comunale importante come il vice sindaco, uno dice: accidenti, che fortuna, rischia di sembrare un privilegio destinato a chi ha una posizione chiaramente più in vista. Allora è su questo che nasce la polemica. Per esempio, io leggevo che il suo vicino di casa ha polemizzato perché l'altra parte dell'edificio, che è quella in cui abita lui, invece è venuta giù, o è stata... addentriamo nelle liti condominiali da Amatrice, veramente, guardi, però la denuncia c'è, cara vice sindaco. sì, sì, cioè, però veramente parliamo del nulla, cioè di una non notizia, nel senso che innanzitutto non so cosa abbia detto poi effettivamente il mio vicino, perché per esempio l'articolo riporta che io abbia detto che la casa è di cemento armato, quando non è vero e non l'ho mai detto. Quindi, sì, l'articolo è abbastanza... Poi comunque sia, mi sembra di capire comunque dal contesto, diciamo, dell'articolo, che si lamenta perché non gli è stato riconosciuto questo vincolo dalle belle arti. Ora io non saprei che dirvi, perché non sono uno storico dell'arte, la sovrintendenza poi, se non ha voluto vincolarla, la casa del mio vicino avrà le sue ragioni, però non spetta a me discutere, non ho neanche le competenze, sì, giuste. Insomma, comunque vice sindaco, noi l'abbiamo chiamata per questo, insomma, ha fatto chiarezza, ci ha dato la sua versione. Quella foto effettivamente fa vedere che tra tutte le case distrutte intorno c'è la sua che è rimasta. Ma guardi, lo dice anche il famoso decreto, no, che basterebbe leggerlo, delle belle arti, lo dice proprio che quel palazzetto costituisce ormai l'unico esempio superstite delle numerose dimore storiche, perché sono tutte crollate, questa è la verità. Questo sì. Sì, perché in realtà oltre al suo edificio soltanto la chiesa di Sant'Agostino e San Francesco sono state puntellate e tenute in salvo, per il resto è tutto venuto giù. C'è anche un terzo bene che è stato puntellato nel centro storico, che nel Purgatorio, è la chiesa del Purgatorio, ma nelle frazioni sono state puntellate un'altra quindicina, diciamo, sì, un'altra quindicina di chiese, ma per il resto è veramente... Vabbè, vice sindaco, noi comunque la ringraziamo, Patrizia Catenacci, vice sindaco di Amatrice. Cara Veronica, qui sai, sul terremoto purtroppo è la storia che si ripete, cioè è storia di polemiche, i fondi che non si sa dove vanno, dove vengono dirottati, adesso le false residenze, anche polemiche, insomma, di il vice sindaco che sarebbe stato favorito, e non riusciamo a fare un sistema paese in questi casi. No, questo è assolutamente vero, anche perché poi appunto le tre vicende che si sono sviluppate attorno ad Amatrice nelle ultime 24 ore danno un bello squarcio. Però volevo dirti che leggendo i messaggi ce ne sono tanti che dicono non farò mai più l'SMS solidale. Ora, su questo, che è la domanda che io ponevo al vice sindaco, il fatto che Pirozzi, con un tono chiaramente da campagna elettorale, abbia voluto portare l'attenzione su questa questione... Non si discute tanto il ragionare sul fatto che ci sia sempre un po' di opacità attorno all'utilizzo dei fondi, anche non in malafede, ma semplicemente non trasparente. Ma utilizzare certi toni non rischia di avere l'effetto contrario? Ma sì, qualcuno sicuramente dirà, di fronte a queste cose, allora io non do più i miei... Faccio un gesto per gli altri di beneficenza, mi presto e poi penso che quei soldi vengono usati, In ogni caso, andiamo al traffico, chiamateci all'800 24 0024, e poi il pagatore di IRAP, Leonardo Manera, eccolo qua che arriva con noi tra poco. Ma è andato a pagare forse. I funamboli. Volano accuse pesantissime qui negli studi di Radio 24 a Milano, cara Veronica. Sono che accusato di essere untore. Sei un untore. Ma lei ha iniziato a dire, comincio a non sentirmi bene. Io quel raschino alla gola, un po' di mal di gola, naso chiuso, ipertrofia dei turbinati. Hai paura che domani tocchi a te, Leo? Non ti avvicinare, no, non toccarlo, non respirare la sua aria. No. Io so che ovunque passa Alessandro Milan, poi persone hanno problemi. Questa... Bene, vi ringrazio molto. Ti aspetto qui a Roma. È brava la sindaca di Amatrice, vice sindaca di Amatrice, perché è stata l'unica che ha avuto l'occhio di comprare la casa più solida. Tutte le altre sono crollate. Quando l'ha comprata, qual è quella che ipoteticamente potrebbe essere la più solida? Hai avuto l'occhio giusto. Brava la vice sindaca. Brava. Infatti, questo mi ricorda qualcuno. Mi ricorda un personaggio. È brava la vice sindaca. E prima parlavate anche di tasse. Io ho una proposta per le tasse. Il canone TV, che tanti odiano, facciamolo a consumo. No? Tutte le cose vanno a consumo, si fa consumo la luce, consumo dell'acqua, facciamo anche il canone a consumo, cioè metti un piccolo contatore sulla televisione, quanta ne guardi tanto paghi, sei d'accordo? Ma se guardi la Rai o se guardi ormai... tu? Perché sai che è una tassa sul possesso della TV, non sulla Rai. Niente, facciamolo a consumo, cambiamo tutto, rivoluzione a Radio 24. Rivoluzione! Ma la tassa sulla radio non c'è? Come no, la canone è anche sulla radio, cioè qualsiasi strumento atto a ricevere, cioè no, però deve avere, credo è impreparato. Vabbè, ma non studi niente. No, però io ti faccio le domande il pomeriggio, te lo dico prima, preparati. Come sulla no, tassa sulla radio, sulla radio non c'è la Rai, per esempio, certo che è nata anche per la radio. No, sai quanti traslochi e quante tasse ho pagato io sulla casa? Io ho fatto nella vita circa 8 traslochi, se non sbaglio, no? Ti cacciavano così spesso? No, io sono andato a vivere a Milano presto e poi negli anni ho fatto tanti trasloghi e mi sono reso conto che per gli italiani la casa, insomma, lo dicono tutti, è il bene rifugio, ma è anche quella cosa che quando compriamo cerchiamo di abbellire, di migliorare. Le coppie, per esempio, appena hanno fatto il rogito cominciano a mettere mensole. Per sapere da quanti anni sta insieme una coppia con case di proprietà non bisogna chiederlo, basta guardare il numero di mensole che hanno in casa. All'inizio fanno molto l'amore e hanno poche mensole. Dopo un po' di anni, solo mensole. che mestizia, sì. Io appena arrivato a Milano, era l'89, abitavo da solo in un piccolo monolocale, 20 metri quadri, con angolo bagno, angolo letto e angolo cottura. Più che una casa, un triangolo. Però col cucinotto separato, perché mia madre diceva così, se fra il fritto e il pesce non si sente l'odore. Per 400.000 lire al mese, e la proprietaria diceva qui è piccolo ma c'è tutto il necessario, anche perché per far entrare il superfluo avrei dovuto uscire io. All'inizio non avevo neanche il televisore, poi per sentirmi meno solo ne avevo comprato uno che si era rotto quasi subito, si vedeva solo Rete 4. Ricordo una finale di Coppa dei Campioni, Milan Steaua a Bucarest, 4-0 per il Milan, tutti guardavano la partita e io invece guardavo una replica di Walker Texas Rangers su Rete 4 con Chuck Norris che assomiglia un po' a Rod Gullit. E poi avevo in quella casa due vicini di casa, due pensionati che sentivo sempre litigare attraverso i muri sottilissimi, litigavano perché lui odiava il minestrone e lei per ripicca glielo faceva quasi tutte le sere. E fece il rapporto sadomaso basato sul minestrone. E ricordo la prima volta che ho fatto l'amore in quel monolocale con una ragazza che era venuta a trovarmi, cara Veronica, proprio da Roma. Abbiamo fatto l'amore su quel lettino, che era un lettino singolo perché non ci stava il matrimoniale. Poi, siccome per dormire tutte e due non ci stavamo, lei ha dormito nel lettino e io sulla poltroncina accanto, come se fossimo in ospedale. Il giorno dopo pranzo l'ho preparato pollo lesso col purè e lei è andata via. E poi mi sono trasferito in un appartamento un po' più grande, un bilocale ma con angolo cottura separato, così se facevi il fritto o il pesce non si sentiva l'odore. Di quell'appartamento ricordo la custode del palazzo che anche fuori dall'orario di apertura teneva sempre la porta semi aperta per controllare chi andava e chi veniva. Secondo me anche quando è morta si è fatta tenere la bara semi aperta per controllare chi andava e chi veniva. E poi nel 95 con la mia prima ragazza con la quale ho convissuto mi sono trasferito in una casa un po' più grande, a Brugheri, un trilocale con angolo cottura separato, così fritti, pesce, niente odore. Ricordo che abbiamo comprato insieme la nostra prima lavatrice e in quella lavatrice dove mettevamo insieme i nostri vestiti c'era la sintesi del nostro amore con un programma per ogni stato d'animo. Quando eravamo romantici il programma Capi Delicati, quando litigavamo il programma Macchie Difficili, quando volevamo fare l'amore selvaggiamente il programma Solo Centrifuga. Poi qualche anno dopo ci siamo lasciati quando si è rotta la lavatrice. Ogni tanto veniva mia madre a trovarmi nel mio primo piccolo monolocale. Mi diceva, Leo, cosa sei venuto a fare qui da solo in questo piccolo monolocale, per fortuna con angolo cottura separato, così se fai fritto il pesce non si sente l'odore. Io ero andato a Milano per fare spettacoli e le ho risposto, sono venuto qui a inseguire un piccolo sogno, una speranza, una passione, che in quel momento riuscivano a stare tutte proprio dentro quel monolocale, che anche se era un monolocale in quel momento conteneva proprio tutti i miei sogni. Ma che bello, il nostro Leonardo Manera, signore. E mi ricordo quella casa che è veramente piccolissima, aveva lacrimuccia. E con quella ragazza che arrivava da là, insomma. Fu il mio primo amore vero in qualche modo. Certo, che purè e però questo andata, ha scioccato, cioè, tutti noi. Perché pollo lesso e purè, Leo? Neanche apposta. Perché avevo dormito sulla poltroncina accanto al letto come se fossimo in ospedale, quindi l'ho preparato un pranzo tipo ospedale. Per rimanere, certo, pollo lesso coerente alla linea. Guardate che però le persone ci chiamano sulle tasse, dicono le tasse più assurde. C'è Arrigo che ci chiama da Treviglio. Buongiorno Arrigo. Buongiorno. Che ci vuole dire? Che tassa paga lei? Una tassa strana. Strana? Nel senso che abbiamo un fosso che rasenta la nostra casa per una ventina di metri. Ovviamente a suo tempo che l'ha costruita ha messo anche un ponticello, se no, non potendo volare. Bene, paghiamo la tassa sul ponticello. In questo fosso si riversano due pluviali dell'acqua chiare, limpide, dal tetto. Paghiamo questi due pluviali. Non sono troppo odiose, però sono tasse. Un po' stanno sulle scatole. Ma cosa vi arriva a casa? Tassa sul ponticello? Sì, signore. Sì, e quanto pagate all'anno? I pluviali sono circa 100 euro all'anno. Ah, beh. se non che vi devo dire che due pluviali che riversano nel nostro giardino, per quelli non paghiamo niente. Beh, uno può pensare così, 100 euro, vivo in un castello, va attraverso il ponte. Il ponte levatoio. Il ponte levatoio, tutti i giorni. Per richiudermi nella mia reggia, il ponte levatoio, cioè ma giusto punto, 100 euro. Non potete fare un bel abuso e fare un bel pontone dai, grande? Almeno smettila! Eccoci qua, eccolo. Puntate su mamma puntate, mia. L'abuso. Ci distrugge questo tutto. È l'abuso senza necessità, si chiama. sì, però da soddisfazione. L'abuso di goduria vuole fare. C'è Ciro che ci chiama da Napoli, grazie Arrigo. Ciro da Napoli, buongiorno. Ciro. Buongiorno. Ciro, che c'è a Manicere? Allora, prima cosa non parlo napoletano, purtroppo. Ah, lui che non parla diretto. Vi ha sistemato, allora. Vi ha sistemato. No. Comunque, vi volevo dire questa cosa. Io sono ingegnere e quando studiavo all'università c'era una tassa che mi dava su nervi in una maniera pazzesca. Ogni anno quando mandavo a iscrivere c'erano tutte le varie voci, iscrizione, contributo aula, poi c'era la tassa sul diritto allo studio. Bello. E non avete idea di questa cosa come mi desse sui nervi, per quanto erano pochi euro, erano tipo 60 euro. Sì, su ma era così lo Stato, 50 euro di qui, 30 euro di là, 20 euro, sì, perché poi lo moltiplichi per i numeri. Che mi innervosiva, quindi la tassa sul mio diritto. E quindi hai smesso di studiare perché ti infastidiva la tassa? No. Purtroppo ho studiato, mi sono laureato. In cosa? Ho fatto questo grande errore. Sono ingegnere. Ingegnere. Comunque, grazie Ciro. Però da l'alibi Napoli. C'era per smettere di studiare. La tassa sullo studio dice. Arrivano, bravo Manea, sei fantastico. Oh, che amore, Leo. Sono commosso, ci scrive Michele da Firenze. Ovviamente. Ma per esempio, la tassa su Michele c'è? La tassa su Michele da Firenze. Michele da Firenze, sai che ti aspetta a Firenze. Ma ormai ci dobbiamo incontrare, fissi, andiamo a Piazzale Michelangelo, sopra Firenze, da dove si vede tutta la città. Io e Alino veniamo a reggere il moccolo. Capito. Questa è la situazione qui a Radio 24. Siamo in grado a funambole anche di creare coppie vere, presunte o di fatto. Però nella seconda parte parleremo di università, visto che c'era Ciro, per raccontare questo spaccato di presunti concorsi truccati. Non è la prima volta, cara Veronica. No. Parleremo di tante altre cose, il funambolo del giorno. Insomma, state con noi, C'è qualcosa che non va nella tua vita? Ti senti solo? Triste? Depresso? Hai i capelli deboli? Sottili? Sfibrati? Non riesci ad ottenere la tartaruga sulla pancia? Allora è giunto il momento di annegare tutti i dispiaceri nell'alcol dell'amaro Caporetto. Amaro Caporetto, l'amaro di chi, dopo aver perso tutte le battaglie, ha già da tempo perso anche la guerra. Amaro Caporetto, gustalo mentre ti arrendi. I funamboli. Voi ancora non sapete cos'è questa cosa? Ho detto esattamente così. Quanto può crescere, fin dove può arrivare? È presto per incassare le fiche. $1,000,000 non è fico, sai cos'è fico? $1,000,000,000. È lì che arriverete. $1,000,000,000, questo varrà la società. A meno che non vi consiglino male, allora tanto valeva aprire una bella catena di yogurterie. Allora, questo forse l'abbiamo visto tutti nei social network, è la storia di Facebook di fatto, no? Di come si possano creare delle storie di successo, magari partendo da in tre o quattro e da un garage e avere delle imprese, soprattutto nel digitale. Tutti che partono dal garage, quindi la prima cosa è avere un garage nella vita. E pagare le tasse. Adesso scendete giù di sotto, andate nel garage del Sole 24 Ore, magari un'idea vi viene. Poi chiamatemi e ditemi qual è. La cosa fondamentale, altro che studiare, no, bisogna avere un garage per fare fortuna. Partire dal garage, questo. No, vabbè, il nostro Leonardo Manera, tra l'altro, vi sta raccontando una cosa sulle tasse interessante che un tuo amico ti ha scritto. Allora, poco l'amico fa. Claudio Lauretta, che tra l'altro è un bravissimo comico e imitatore, mi racconta. Adesso mi ha detto: mettila da parte, che ne parliamo dopo. Invece, sei un maledetto. Allora, mi dice che lui, quando negli anni 90 faceva il vetraio, c'era una tassa sul metro. Dice: io andavo in comune nei primi giorni dell'anno con un metro di legno, che era sempre lo stesso. E loro con un bollino me lo bollavano, facendosi pagare 15.000 lire per far sì che controllassero che era veramente un metro. Non ho capito bene. Non si sa, vabbè. Perché sennò magari lui rubava sui centimetri, no? E c'era anche sulle bilance per stabilire che un chilo era un chilo. È giusto. Cioè per tarare gli strumenti. Abbiamo capito. Grazie, Claudio. Va bene. Però... Comunque, la domanda: la tassa più strana che hai mai pagato? È un po', dimmi il posto più strano in cui hai fatto l'amore. Queste cose così. Era chiaro, è dall'inizio della puntata che l'associazione va lì. Cari amici, cari amici, siamo partiti da social network, da Facebook, perché vogliamo raccontare la storia di una persona che si può dire ce l'ha fatta, cioè un italiano che all'estero ha creato insieme ad altre persone un'impresa davvero poco conosciuta dai nostri lidi, ma importantissima nel luogo in cui lui lavora, ed è... Il funambolo del giorno. Nome: Riccardo. Cognome: Basile. Età: 38 anni. Laureato in Bocconi, nel 2012 lascia il lavoro in McKinsey a Londra per fondare insieme ad altri soci il sito di e-commerce Lazada, operante nel sud-est asiatico. Inizialmente a capo di uno dei paesi più importanti, la Thailandia, è ora parte della leadership del gruppo, a capo delle attività commerciali. Allora, Riccardo Basile, buongiorno, anzi, buon pomeriggio, da dove ci parla lei e che ore sono? Sono a Singapore, sono le 4 del pomeriggio. A Singapore le 4 del pomeriggio, sì, come al solito le linee telefoniche nostre sono un po' ballerine, comunque la sentiamo. Beh. Allora, lei ha lasciato il lavoro a McKinsey e è andato a cofondare, perché con altre persone, Lazada.com. Esattamente di che cosa si tratta? Lazada è un general e-commerce simile a quello ad Amazon, in Italia sarebbe Amazon, e si è lanciato nel 2012 e adesso è, diciamo, leader di mercato in 6 paesi, quindi oltre alla Thailandia, dove del paese del quale mi occupavo io all'inizio, siamo in Indonesia, nelle Filippine, nel Vietnam, Malesia e Singapore. Quindi in totale copriamo nei 6 paesi, abbiamo circa 550 milioni di persone che acquistano 550 milioni di persone. Ma ci picchia, Riccardo, ma com'è cominciata tutta questa esperienza? Cioè, qual è stato il motore? Beh, ovviamente io non mi sarei mai aspettato che allora, tutto è nato un po' per caso, perché nel 2012 ero con la Rola McKinsey, una città di consulenza a Londra, e ho incontrato un collega di McKinsey dell'ufficio tedesco, e lui aveva avuto questa idea di provare a lanciare appunto la Amazon del sud-est asiatico, perché ai tempi non c'erano dei grandi gruppi di e-commerce qua nel paese dove operiamo ora. E quindi lui aveva visto l'opportunità. Lui aveva anche trovato un finanziamento iniziale da un fondo, si chiama Rocket Internet, e quindi, diciamo, stava cercando persone che si fossero lui. E io un po' così, questo spirito di avventura, sono saltato sul progetto, mai avrei pensato, diciamo, di trovarmi qua 5 anni e mezzo dopo. Sì, a fare questo. Allora, la linea telefonica è un po' sarà a Singapore, insomma, che facciamo fatica a capire benissimo a tutte bene. Le parole. Però Riccardo Basile, appunto, ha creato insieme ad altre persone questo Lazada.com. Tra l'altro mi ha colpito perché qualcuno, credo in famiglia, le ha detto: ma come vai a vivere in un luogo dove internet non è così diffuso, il sud-est asiatico? E invece la dimostrazione è che avete creato un vero e proprio impero, possiamo dire così, impero economico, impero commerciale? Però impero è una parola brutta, no, sicuramente abbiamo creato un'azienda che adesso sarà valutata più di 3 miliardi di dollari, e siamo entrati a far parte del gruppo di Alibaba. Eh beh, 3 miliardi di dollari, Alibaba... Mi sentite? Benissimo, benissimo, 3 miliardi di dollari, insomma, benissimo, un po' una parola un po' esagerata, la sentiamo bene. 3 miliardi di dollari e acquistati da Alibaba, direi che... Quindi siamo stati fortunati, e diciamo la cosa incredibile è che la ragione per cui siamo riusciti a fare Fashion Business è, sono i telefonini, gli smartphone. E ovviamente nessuno di noi ne aveva idea quando siamo arrivati qui, però di fatto la diffusione degli smartphone, di questi smartphone a buon mercato cinesi, ci ha permesso di ovviare alla mancanza del broadband, quindi l'internet veloce, Mm-hmm. E nonostante quello non ci fosse, siamo riusciti a crescere molto in fretta anche nelle zone rurali di questi paesi, dove in realtà l'e-commerce è l'unico modo molto spesso per comprare beni anche di più. Effettivamente, capisci, cioè Veronica, è chiaro che se uno non ha una connessione, però con gli smartphone ormai si può acquistare. Può acquistare beni che magari non trova in altro modo. Ma mi colpiva un'altra cosa che leggevo dalla tua esperienza, Riccardo, che l'idea che, cioè, tu dici che non hai nessuna nostalgia, che tutte quelle storie di emigranti lontani che piangono rimpiangendo il loro paese, io sono qui a Singapore, ma in realtà vorrei essere in Italia, non è affatto così. No, non so dove questo sia scritto, ma non è assolutamente vero. Io sarei molto felice di, anzi sicuramente tornerò in Italia e sarebbe molto piaciuto poter fare tutto ciò in Italia. Mm-hmm. E è abbastanza, quindi no, io invece non vedo l'ora di poter fare frutto di questa esperienza e tornare a casa. Mi manca molto l'Italia, mi manca anche molto l'Europa in generale. E ciononostante sono molto grato a questi quasi due paesi di adozione, ora che siamo alla Thailandia e Singapore, perché mi ha dato l'opportunità di fare. No, poi sono stato la scorsa estate a Singapore, è un paese magnifico, insomma, ipermoderno. Hai capito, l'asciocchino. È un paese straordinario. La vostra forza è stata andare in un posto dove c'erano appunto questi paesi anche con pochi negozi, con poche cose, quindi l'avere poco sviluppo sia tecnologico all'inizio, no, che poi anche proprio reale di negozi, centri commerciali, ha favorito in qualche modo la vostra espansione. Sì, sicuramente. Allo stesso tempo ovviamente c'erano dei elementi di contesto macroeconomico, per cui questi sono paesi che crescono in fretta, quindi è molto facile trovare finanziamenti. E poi ovviamente sono anche paesi dove, insomma, banalmente si può fare impresa in maniera un po' più facile, perché insomma, anche dal punto di vista fiscale, della legge del lavoro. Esatto, per chiudere, caro Basile, io volevo chiedere quanto pagate di tasse, giusto? Visto che noi abbiamo parlato qui di tasse nella trasmissione prima di voi, prima di lei, quanto pagate di tasse? Quanto si paga? Quanto un'impresa paga di tasse da quelle parti? Beh, io non entrerei nei dettagli delle tasse, perché ovviamente poi in realtà cambia molto da paese a paese, quindi come l'ho detto operiamo su in 6 paesi, però diciamo in linea generale, direi, se io dovessi comparare questa esperienza all'esperienza italiana, sicuramente quale al di là delle tasse è più semplice fare impresa. Sì. Allo stesso tempo penso che però se anche usiamo un po' di carattere psicologico, quando penso all'Italia, per cui penso che in Italia potrebbe fare molto, nonostante alcune difficoltà oggettive, si potrebbe fare moltissimo. Più di quanto veda accadere al momento nel paese. No, ma è chiaro, anche fare di internet. Sì, di internet e anche della burocrazia. Va bene, noi la ringraziamo Riccardo Basile, ricordiamo, cofondatore di Lazada.com. È un'impresa che nell'e-commerce davvero nel sud-est asiatico è... Adesso gli consigliamo per il futuro di occuparsi di linee telefoniche, così per risolvere il problema, che il vero quesito è: ma anche lui avrà cominciato in un garage, cioè prima di mettersi in fuga come cervello, anche lui stava in garage a pensare. Garage. Comunque, caro Leonardo, mi scrivono che la tassa sul metro c'è tuttora, si chiama verifica metrica. E quindi bisogna. Ma d'altronde, anche se ci pensi, cioè è assurdo la tassa, ma bisogna verificare che uno che ti vende le cose a metro te le venda con un metro che non è, se ne fanno una ragione. Però ci scrivono se ti vende anche 70 scusatemi. Centimetri e te le... Vorrei chiedere a Manera il nome del suo commercialista, dato che il mio non mi dice paghiamole, ma mi dice pagale le tasse. Sì, ma diciamo esatto, sì, però poi la sostanza è quella. La forma talvolta è sostanza. No, ma tra l'altro ci sono delle accuse, siccome è un amico d'infanzia di Leonardo, non si offenderà, ma un ascoltatore dice il commercialista di Manera è un collaborazionista venduto. No. Mio amico Marco, mio migliore amico, devo dire. Il suo migliore amico, certo. Ecco, per favore. Anche la tassa sulle bilance attuale. Insomma, tutto ciò che misura qualcosa, il peso, il metro, eccetera. Ho capito, però lì si tratta solo di controllare che un oggetto è tarato nel modo giusto, perché bisogna far pagare una tassa per un controllo. È questo il concetto assolutamente. E la morale della favola è che anche con le tasse esiste famolo strano. Comunque, cari ascoltatori, dopo il traffico parliamo di concorsi universitari che sarebbero poco truccati. Da ridere, ma proprio poco da ridere. C'è un'inchiesta che parla di presunte corruzioni, concorsi truccati, il concetto universitario che tante volte abbiamo visto, cioè questo è mio, questo è tuo, tu lo, prima lo vince questo. Sette baroni agli arresti domiciliari. Esatto. Ma roba da pelle d'oca. I funamboli. Contrariamente a quello che sembra, non è il candidato a vincere un concorso, ma il concorso a vincere il candidato. Spiego. Lo schema per l'assegnazione di un posto da ricercatore, il primo ruolo accademico ufficiale è a tempo indeterminato, ma è così anche per le altre posizioni, non segue la linea. 1. C'è una necessità in dipartimento facoltà, un buco. 2. Si bandisce un concorso per un posto, coprire quel buco. 3. Si presentano tot candidati. 4. Si nomina una commissione. 5. La commissione valuta i candidati secondo dei criteri prestabiliti. 6. Si proclama vincitore il più idoneo e meritevole. No, è il contrario. 1. Si sceglie il vincitore. 2. Si bandisce un concorso su misura per farlo vincere. Veronica ha letto un brano da un libro che non è mai uscito in realtà, che poi è diventato un monologo teatrale, un monologo dal titolo Università e puttane. Matteo Fini lo ha scritto. Matteo, buongiorno e grazie di essere qui con noi a Radio 24. Ciao ragazzi, bello sentirvi, grazie dell'invito. Allora, perché dobbiamo raccontare questo spaccato che è su tutte le prime pagine dei giornali, devo dire, Corriere apre su questo, altri giornali su questo. Che cosa è successo secondo i riscontri? Un ricercatore ha denunciato c'erano accordi illeciti per spartirsi gli assegni di ricerca e spartirsi le posizioni, cioè le classiche situazioni in cui hanno detto a un ricercatore no, fatti da parte, poi dopo ti mettiamo delle cose a curriculum e al giro prossimo toccherà a te. Si parla di 59 indagati e come dicevamo 7 professori di diritto tributario, cioè 7 baroni agli arresti domiciliari. È una cosa veramente roboante. Cioè, fatemi capire, invece che sulla base di meriti si sarebbe deciso sulla base di favori, di spartizioni, è così? Questa è l'accusa. C'è cioè, chi parla addirittura di nuova cupola nelle intercettazioni, cioè sostanzialmente corruzione è l'accusa, uno scambio di favori per cui i miei studenti li porti avanti tu, io porto avanti i tuoi, e c'è una reciprocità in questo senso per cui il merito viene completamente messo da parte. Le intercettazioni sono inquietanti. Sono abbastanza inquietanti. Tra l'altro la frase chiave è che un ricercatore di origine inglese ha denunciato tutto, anche se sta in Italia, e gli hanno detto ma insomma, ma smettila di fare l'inglese, fai un po' l'italiano. Era su questo che volevo arrivare al defurbizziamoci. Dici, perché abbiamo fatto la campagna defurbizziamoci? Una tristezza in la morale della favola è smetti di fare l'inglese, fai l'italiano. Ma no, ma come? Allora, Matteo Fini, è davvero così il mondo universitario? Non generalizziamo, non sarà tutto così, no, per carità. Certamente non generalizziamo. Onestamente mi stanno chiamando da tutte le parti, però per me questa è una non notizia, cioè che il sistema accademico funzioni in questo modo non lo dico io, non lo dicono i giornali oggi, è così da anni, si sa. Il problema è proprio quello, non è questione neanche di inglese Italia, il sistema è totalmente incancrenito in questo modo, per cui probabilmente il ragazzo mezzo inglese l'ha visto come una cosa strana, gli è sembrata strana, ma in realtà strana non è per chi è dentro, indipendentemente dal fatto che sia una persona onesta o non onesta, un bravo ricercatore o un pessimo ricercatore. Il sistema quello è e non ci puoi fare niente. Forse la notizia è che c'è un'indagine, questa sì. Non è la prima neanche questa, nel senso esatto, che ci sono, vediamo ci sono. Come andrà a finire. Vediamo. Ma tutte le dichiarazioni che tu hai fatto, questo libro che hai cercato di pubblicare, poi non so, ora ci spieghi, non sei riuscito perché ho capito che ci sono state insomma diverse dinamiche di censura più o meno dichiarate. Tu tutto questo lo dicevi già, cioè raccontavi proprio una sorta di decalogo di tutto quello che non dovrebbe succedere, invece succede nelle università. Sì, certo, io ho raccolto un po' di cose note e stranote, le ho raccontate con serietà ma col sorriso, e ho provato a farne un libro che esiste, è in mano all'editore, ma non è ancora potuto uscire perché sì, ho ricevuto negli anni qualche diffida, qualche denuncia, qualche minaccia a non pubblicarlo. Insieme a Matteo Fini vogliamo salutare, ritorna con noi, lo ringraziamo, il direttore di Oggi, Umberto Brindani. Ciao direttore. Ciao, buongiorno a tutti. La battuta che effettivamente da questa inchiesta, che poi si vedrà come si dipanerà, ha più colpito è proprio questa: smettila di fare l'inglese, fai un po' l'italiano. È una condanna terribile per noi questa frase. No, fra l'altro leggevo sul Fatto che questo ragazzo, che poi non è tanto ragazzo perché credo che abbia più di 49 anni. Esatto. Questo signore, diciamo, aveva scritto una lettera un anno fa al Fatto Quotidiano raccontando che lui aveva già denunciato un dirigente dell'amministrazione tributaria, diciamo, dell'Agenzia delle Entrate. Sì. Quindi, insomma, è un vero inglese, ecco. È un vero inglese. La cosa che a me fa impressione è che si verificano spesso questi episodi nelle università, che in teoria dovrebbero essere dei posti dove comunque c'è una certa, come dire, etica. Invece no, ciclicamente c'è sempre questo problema. No, aggiungo che qui stiamo parlando di diritto tributario, cioè stiamo parlando di insegnanti, di professori che dovrebbero occuparsi di legge. Legge che... Niente, oggi non usciamo dalle tasse, da un'ora e mezza che parliamo di tasse, anche il diritto tributario, giustamente. Oltretutto, la cosa che fa più arrabbiare in assoluto è che mentre le dinamiche di corruzione innervosiscono sempre, in Italia le conosciamo, ma in quelli che sono gli ambienti edotti, dove domina la cultura, no? Volti a questo ci sia una dinamica di corruzione, il merito, che è quello che la consacrazione di questi ambienti, viene completamente dimenticato. Ah, no, è un paradigma dell'Italia. No? Conta... Posso dire una cosa riguardo? Il fatto è proprio quello, la beffa è doppia, perché i concorsi sono stati introdotti anni e anni fa proprio per certificare un qualche merito. Esatto. E invece sono diventati lo strumento di spartizione. Non per forza ci devono essere dei concorsi. Ma infatti c'è quest'altra frase, quest'altra frase chiave: non conta chi è bravo, conta mio è mio, tuo è tuo. No, proprio questo, per carità, sono spaccati di intercettazioni, non facciamo il processo oggi qui, in radio ci sarà un processo. C'è, però... c'è un'altra frase chiave, Alessandro, è quella che avrebbe pronunciato l'ex ministro Fantozzi, no, sulla cupola, quindi, come dire, che evoca comportamenti, diciamo, usiamo la parola, mafiosi, cioè ricatti, scambi, eccetera. Quindi anche questa è una parola che sempre poi, naturalmente, la magistratura farà il suo dovere, eccetera. No, però insomma sono cose che colpiscono. E aggiungo scusami, che questa facendo diciamo le dovute proporzioni, questa vicenda mi ricorda tantissimo Mani Pulite, perché esatto questo c'è come la sensazione che questi signori non si rendessero pienamente conto del fatto che stavano commettendo gravi reati, insomma. Oppure c'è una sensazione di impunità, no? Per cui il sistema sia talmente incancrenito anche per cui... Ma c'è un'analogia al gergo dei tangentisti, questo è molto vero, è anche una delle cose che è stata segnalata proprio nel corso delle indagini, cioè si utilizzano delle parole che messe in bocca a dei docenti universitari diventano veramente, cioè fanno un effetto stridente fortissimo. Ora, bisogna poi vedere, lo ridico, come andrà avanti. Le intercettazioni sono molto, molto dure. È che Matteo Fini racconta uno spaccato universitario in cui i concorsi sono pilotati in alcuni casi. Ecco, la domanda che si fanno tutti è in quanti casi, nessuno ha una risposta certa. Però ci sono persone che dicono sono tutti così, altri che dicono no, non sono tutti così, però buona parte. Ma Matteo, ti posso chiedere di raccontarci una tua esperienza che ho letto, che è particolarmente emblematica secondo me, che è quella del curriculum, no? Quando hai fatto il concorso per titoli. Sì, una volta ho fatto un concorso che era esclusivamente per titoli e lo concorrevo io e due ragazze neolaureate. Una non era ancora laureata, poverina. Io invece avevo già l'esperienza accademica, il dottorato, pubblicazioni, eccetera. Pur non essendo uno strafenomeno, ero sicuramente un pochino di più di queste due ragazze. Sta di fatto che su una scala da 0 a 20 di punteggio, solo per titoli, ripeto, non c'era una tema in cui uno doveva dimostrare di saper fare le robe. Solo per titoli, da 0 a 20, le ragazze hanno preso 18-17, adesso non mi ricordo, io 0. Ora, voglio dire, con tutto il bene, ne ho vissute di... Non c'era la discrezionalità, non è che dici, sai, valutavano in base a uno scritto, no, cioè il curriculum, quello è. perché evidentemente poi... essere laureati toglie qualche punto. Il nostro Leonardo sì, Manera si sa che... è una corsa all'indietro. C'è un altro aspetto che mi ha colpito di questa vicenda, che è anche questo uno spaccato d'Italia, ripeto, poi è un'intercettazione. Caro Brindani, a un certo punto la sensazione è che se questa persona si fosse adeguata al sistema, anche per lui ci sarebbe stato da mangiare, no? Perché quando gli dicono così ti giochi la carriera, invece se accetti ti facciamo scrivere un paio di articoli, così reimposti il curriculum e vieni abilitato nella prossima tornata. Fidati, cioè, fidati, gli fidati, dicono. Fidati, stai lì buono che poi ci sarà anche per te. Sì. Beh, ma questo è, come dire, getta ulteriore luce positiva su questo signore, perché io non so quanti, ma mi ci metto dentro anch'io, con tutta la sincerità che posso esprimere, non so quanti avrebbero avuto il coraggio di buttare alle ortiche prospettive comunque di carriera, di dottorato, di insegnamento e quindi anche di denaro e di redditi per la propria famiglia per fare l'inglese in Italia. Una persona da ammirare. Una volta c'era una rubrica che aveva inventato Giuliano Ferrara sul vecchio Panorama, gente da ammirare. Questo è uno di loro. Sì, perché per rompere la dinamica di connivenza, perché poi è chiaro che tutti quelli che sono studenti, dottorandi, no, che cercano poi di fare un percorso, se respirano che questa è la dinamica, sono un po' costretti a piegarsi. Leggevo sempre, Matteo, che tu dici che poi c'è anche un po' questa cosa che è come se tu fossi un eletto quando un professore ti sceglie. Certamente, un po' perché ovviamente sei super protetto, un po' perché il professore attraverso di te dimostra il proprio valore e magari il proprio potere. Quindi questo ti rende anche un po' vincolato dal punto di vista psicologico, cioè si crea un legame per cui... Totalmente vincolato, ma all'inizio non lo capisci, anzi pensi appunto di essere un eletto, poi capisci che insomma ci sono delle dinamiche per cui lì sei, lì devi stare, andarsene... E star tranquillo, stare un po' al tuo posto. Allora c'è un'ascoltatrice, dobbiamo anche chiudere. Vogliamo dire il nome, perché a questo punto gente da ammirare. Filippo La Roma Iezzi, questo è il nome del ricercatore che ha deciso di denunciare tutto questo. C'è Lisa che ci chiama da Milano. Buongiorno Lisa. Buongiorno. Eccoci. Io vi chiamo come testimonianza proprio. Io ho 48 anni e io e mio marito lo è tuttora. Io sono stata ricercatrice universitaria e abbiamo passato vicissitudini di ogni genere tipo. Io sono uscita dal sistema, letteralmente da un sistema mafioso, nauseata alla tenera età di 38 anni. Nauseata perché passano avanti tutto e di più, purché sia raccomandato, purché sia appunto espressione di un potere di qualche professore, un candidato non... certamente scelto sulla base dei titoli. Io faccio presente che io e mio marito siamo in totale, abbiamo 3 lauree, 2 dottorati, una specialità, tutti a pieni voti. E quindi Lisa, nonostante ciò, nauseata, ha dovuto lasciare questo mondo. Per carità, è uno spaccato che abbiamo dato non molto confortante, ecco, ma d'altronde non ne esce molto confortante dalla lettura dei giornali di oggi, questo dobbiamo dire. Cara Veronica, dobbiamo salutare i nostri ospiti. È l'incubatrice della corruzione, perché se comincia nelle dinamiche che sono quelle di studio e di ricerca, cioè, allora uno alza le mani e dice ok ragazzi, è così. In ogni caso, nel ringraziare Umberto Brindani, la copertina di oggi sarà... Non spoileriamo. Sempre tu mi chiami mentre ci sto lavorando. Io la faccio apposta. Però ti posso anticipare... C'è Leonardo Manera qua, se vuoi, mettiamo un copertino. Ma un tempo vendevi me, adesso vendi Manera, ma siamo proprio caduti in basso. Vi posso anticipare che abbiamo una straordinaria lettera di Albano. Una lettera che ha scritto al dittatore coreano. Quindi dopo Razzi Albano. Cioè vuole scongiurare la guerra. Albano ha scritto a Kim Jong-un. Esatto. In non coreano? Vi dico altro. In coreano? No, per chi volesse saperne di più, acquistare oggi in edicola. Domani in edicola. Per domani. Leggere l'epistolario tra Albano e Kim Jong-un. Perché a breve arriverà la risposta. Il problema è quello, capire se Kim Jong-un risponde ad Albano. Comunque dobbiamo salutare Umberto Brindani, grazie direttore di oggi, e Matteo Fini che ci ha raccontato questo spaccato universitario. È il momento della borsa, poi oggi abbiamo l'ascoltatore dall'estero, preparatevi in tedesco, perché ci ha sfidato a pronunciare esattamente la località o comunque dove si trova. Oddio, adesso che cosa mi toccherà sentire. Chiamiamo Elisabetta Fusconi in onda, che sa il tedesco alla perfezione. Dai, tra poco. i Funamboli. Niente, Veronica canta e balla. Io mi stiro un po', mi sto svegliando adesso, finalmente. Bene, oh. Finalmente mi sto svegliando. Buongiorno a tutti. Buongiorno, una nuova puntata di Funamboli inizia. Benvenuti ora a Funamboli. Veronica sta cantando malissimo, hai notato, veramente? No, più che altro dobbiamo spiegarle che purtroppo c'è questo mezzissimo secondo di ritardo a Roma, per cui fai sempre il ritardo. Cioè, tu sei a tempo, ma la messa in onda risulta un po' in ritardo. Allora correggiamo la messa in onda. Correggiamo la messa in onda. C'è Francesco da Palermo, buongiorno. Buongiorno, a proposito di tasse bizzarre. Alcuni anni fa su una vecchia casa ci arrivò la richiesta del pagamento di una tassa che era il censo enfiteutico. Censo enfiteutico. Cioè? Censo enfiteutico, praticamente era una sorta di tassa che veniva fissata all'atto della vendita a favore o di una congregazione religiosa, di una chiesa. Quindi tu ogni anno dovevi pagare questa tassa al, diciamo, al beneficiario fissato dal venditore. Parlando di una data, di un'epoca che parliamo dal, credo che sia dal 1100-1200. Ah, però, alcuni preti praticamente mandano la richiesta ai vari, diciamo, le proprietà di case, vecchie case, stiamo parlando prima dell'Ottocento. Attenzione, perché io sto infatti andando su Wikipedia, censo che deriva dall'enfiteusi. È un diritto reale di godimento su un fondo di proprietà altrui, urbano o rustico. Il titolare, cioè l'enfiteuta, ha la facoltà di godimento pieno sul fondo, ma per contro deve migliorare il fondo stesso a pagare inoltre al proprietario un canone annuo. Sì, sì, si studia nel diritto privato. Che alcune volte tu devolvevi a una... Bene, per esempio, però c'è Palermo scritto che si può pagare anche in derrate. Hai pensato, pensato di portare un po' di pane? Perché il lessico si adegua al periodo storico, cioè, capito? Guarda, la contemporaneità. Ma lo sa perché ci hanno levato mano? Perché in alcuni casi era 5 lire, 3 lire, 10 lire, ma questo avevo chiesto l'autorizzazione al comune e aveva dato il comune parere favorevole alla riscossione. Cioè alla follia, cioè praticamente noi ci vedemmo recapitata una richiesta credo di 10 lire. Bello. Poi il prete ci ha levato mano e quindi, ma già era attiva e ancora è attivo. No, no, ma è chiaro, Francesco ci ha raccontato una cosa straordinaria. Allora, di folle tu dici tasse strane. Tasse strane. Ma qui stiamo parlando della notte dei tempi. È molto bello il modo in cui parla, comunque, perché sembra bellissimo, molto rilassato, nonostante questo problema legato all'enfiteusi, sembra comunque una persona tranquilla. Ma e prende così, con perché ormai è con filosofia. Effettivamente la medaglia della tassa più bizzarra potrebbe quasi averla vinta. Sì, assolutamente. Allora, però, è il momento, cari ascoltatori che siete all'estero, scriveteci al 349-238-6666, perché chiamarci non potete al numero verde dall'estero, vi svelo questo segreto, non è possibile, non si prende la linea. L'ha detta. Ma se mettete WhatsApp almeno vi convochiamo poi in onda, perché oggi, signori, abbiamo un ascoltatore. Non mi mettete Prince adesso. Scusate. Eccoci. È Prince, eccolo questo, qui. È Prince, questo è Prince, proprio è lui. È lui che canta, poi vediamo se è lui che suona. So. Vabbè, non si sa. Comunque, è il momento dell'ascoltatore all'estero, signori, è il momento di salutare Riccardo e qui vi voglio tutti. Riccardo, buongiorno. Buongiorno, allora, di parlare con voi, in particolare con te che sei stato sottofondo di tante mie colazioni nella precedente fascia oraria. Ecco. Allora, caro Riccardo, tu sei in questo momento, parto io, poi mi dai un voto da 0 a 10, poi dopo tocca a Manera. Forschungszentrum Jülich. Perfetto. Vai, andiamo. Prova anch'io. Forschungszentrum Jülich. Sì, no, io non lo farò, non c'è nemmeno scritto come cara, si dice. Cara Veronica, allora dai, forza. Riccardo te lo dice lui. Riccardo, ci parli da? Forsing Centrum Jülich. Esatto. Detto con una nonchalance. Forsing Centrum Jülich. Siamo in Germania, in Germania. Che poi vuol dire che cosa questa, questa parola? Cosa vuol dire? Centro di ricerca di Jülich. Niente, nient'altro che centro di ricerca. E Jülich dove si trova? In Germania, ma dove esattamente? Terra, terra di Schulz, più o meno. Ah, la grande sconfitta. Sono vicino a quindi Nordrhein-Westfalia. Che aria tira lì in Germania post-elezioni? Ma sinceramente, girando per strada non sembrava di stare in un paese sotto elezioni, a parte per pochi cartelli elettorali e affissi, ognuno nel suo ordine, nel suo spazio. Non mi sarei reso conto di essere in un paese in elezione. Ma come? Non c'erano neanche i manifesti abusivi? Uguale. Neanche un manifesto abusivo, non ci credo. No, esempio... non c'erano quelle appiccicate una sopra l'altro. Che strano, perché che si vedeva la stazione per strada, però perché lui arriva dalla... lui arriva, tu arrivi dalla Vestfalia, che è il posto dove è ambientato il Candido di Voltaire, quindi il migliore dei mondi possibile, per questo che lì non abbiamo percezione. Vedi che maniera si sta registrando. Insomma, come, come vabbè, c'è anche la Merkel che... ma io in realtà ho una domanda veramente profonda. Che, ma perché tu ascolti Radio 24 da Jülich? È poco autoreferenziale la domanda, insomma, no? Allora, così. L'ascolto perché compatibilmente con gli impegni di lavoro mi fa un buon sottofondo. E quindi mi rilassa. Quindi io lavoro fondamentalmente al computer e... così, mi piace avere un sottofondo di notizie, aggiornamenti, finché appunto riesco a seguirli. Poi quando gli impegni di lavoro non lo permettono, poi quando parla Leonardo Manera, il sottofondo comincia a diventare fastidioso. Lì bisogna abbassare, perché sennò non si può più tenere la giornata lavorativa insieme. Ci consiglieresti di venirti a trovare in quelle terre oppure no? Così anche solo per turismo, fine settimana. No, la risposta è no. Potete farne a meno, perché scomodarvi? Nell'area ci sono belle città, sono vicino a Colonia, vivo ad Aquisgrana, quindi perché no? Perché magari no? Proprio nel centro di ricerca, no, perché c'è solamente... No, vabbè, il centro di ricerca no, al limite è un centro commerciale meglio. Comunque... Ma dici solo prima di lasciarci se fa già freddo o la temperatura ancora ci consente? Diciamo 8-15 gradi. 8-15 gradi, fa già freddo. Possiamo constatare che fa già freddo. Riccardo, ti ringraziamo tantissimo. Ascoltatore dalla Germania, dal Forschungszentrum Jülich. Quella roba lì. Fiedersen. No, quella roba lì. Non era quello? Dobbiamo andare al traffico e poi rientriamo. È arrivato Peter. I funamboli. Giustamente ci scrive l'ascoltatore che anche suo cugino ha avuto l'enfiteusi terribile, si è dovuto sottoporre alle cure. Sembra una malattia, sì. Sì. No, ma da oggi sei veramente un enfiteuta, sei. Sì, esatto. Allora, è venuto a trovarci qui a Funamboli, è un ritorno gradito. Peter da Parpo, giusto? Buongiorno. Sì, buongiorno a questo piccolo paese in provincia di Brescia, Parpo. Saluto la signora Gentile. Salve. Signor Milan, ringrazio Radio 24 e anche la signora Confindustria che mi dà la possibilità di parlare di questo problema che si è verificato nel nostro piccolo paese. Un problema, cioè? E che praticamente è successo che da noi nel nostro paese ci sono due gays. Che praticamente cosa? Plurale. Ci sono due gays, no? Conosce, signora, i gays? Che praticamente in paese tutti lo sapevano, ma facevano finta di niente. Se per caso arrivava qualcuno da fuori e chiedeva qui ci sono dei gays, tutti abbassavano la testa e andavano via. Però diciamo che praticamente prima non c'erano mai stati problemi. Ho capito, perché addirittura in paese arriva qualcuno a chiedere ci sono i gays. Qualche volta diciamo che è successo, cioè, parlando al bar, gli argomenti sono che tempo fa il campionato di calcio, qui ci sono i gays, sono gli argomenti classici. Comunque questi due gays a un certo punto hanno deciso di fare, diciamo, il passo più lungo della gamba. Hanno deciso di vantare la loro omosessualità e non tenerla più nell'ombra, come si usa nei piccoli paesi. hanno deciso di fare cammino fuori, no? Come si dice? Sì, coming out. Cammino fuori, mamma mia, no! Il coming out, ti ringrazio. Sì, ha fatto il cammino fuori. Il cammino fuori, ma non è il cammino fuori. È stato un riflesso pavloviano prima che... Ma non è il, è il coming out, vabbè, so, Peter, dai. Vabbè. Perché io parlo in inglese, diciamo, coming out vuol dire cammino fuori, no? Cioè, certo. Uno che lavora alla radio dovrebbe conoscere, sì, anche la lingua. Certo, sì, e hanno deciso questi due gays di chiedere l'unione civile in comune. Che la legge lo prevede, peraltro. Certo, il problema è che il sindaco di Parpo, che è di origine leghista, non voleva celebrare l'unione civile. Allora, ai, ai, ai. Ha chiesto di farlo al vice sindaco, solo che anche lui leghista non lo voleva fare. E non allora... c'era nessuno disponibile, neanche l'assessore lo sport, che è quello un po' più aperto di vedute, no? Essendo lo sport così. Alla fine ha chiesto il postino, ha detto anche lui di no. Allora i due gays, a cui voglio dare un nome di fantasia, Ziegler e Thunder. Ma come Ziegler? Ma perché di fantasia? Ma non c'è nulla di male, Ziegler e Thunder. Scusi, ma poi hanno fatto cammino fuori, quindi a questo punto... So, possiamo dirlo come Ziegler e Thunder. Di sono fantasia. Nomi di fantasia. Ma se devo mettere fantasia, è inutile che metto Marco e Mauro, non metti anche fantasia questo vera. Questo è giusto, vabbè. Metti fantasia, usare la fantasia, certo. E quindi? Hanno preteso questi Ziegler e Thunder di fare l'unione civile perché hanno detto che era un diritto, no? Beh sì, infatti è un diritto, cioè ne hanno diritto. Solo che in tutto il paese non c'era nessuno disposto a celebrare il matrimonio. Allora hanno chiesto a uno stracomunitario dell'Uganda, che è lì in paese, ha accettato. Un signore dell'Uganda che una volta ha litigato con della gente, perciò ha anche esperienza politica. Però siccome... questa non era male, però siccome questo signore dell'Uganda non è italiano, invece della fascia tricolore da sindaco gli ha messo tre fasce, una bianca, una verde e una rossa, e gli hanno anche aggiunto una blu, così nessuno poteva dire hai messo la fascia da sindaco a uno che è dell'Uganda, così no. Però quindi il problema alla fine si è risolto, cioè, no, perché a quel punto qualcuno ha detto in paese, ma come, con tutti gli italiani che ci sono in Italia è possibile che dobbiamo far fare questo lavoro a una stracomunità? Ovvio. Allora il Ministero delle Pari Opportunità e anche quello dello Sport, che è il ministero più aperto, ha mandato gli ispettori per risolvere la situazione, hanno preso l'ugandese, gli hanno dato la cittadinanza italiana per un giorno, così si è risolto il problema, però... ha messo una tassa sui pubblici ufficiali che nelle cerimonie indossano più di una fascia. Ah, eccola lì la tassa. E l'ugandese alla fine aveva 7-8, aveva anche quella di Miss Modella domani. Allora... vabbè, sì. Però e ha pagato un po' di tasse. Comunque, alla fine Ziegler e Thunder si sono sposati. Non riesco a uscire da sto Ziegler e Thunder. Però adesso c'è la polemica perché non si sa chi deve pagare la tassa per l'eccesso di fasce. E quindi sono venuto qui per parlare di questo problema e spero che la Radio 24 mi aiuti a risolverla, perché per non gravare di tasse tutti noi cittadini di Parpo. Magari non lo so, la ringraziamo, magari c'è qualche commercialista all'ascolto. Mi permetta aiutare anche di salutare i signori Ziegler e Thunder, ormai uniti felicemente. Li salutiamo, Ziegler e Thunder, un saluto caloroso da tutti noi. Ma c'è la tassa sulla S di gays? Sì, perché sul valore aggiunto, che hai messo una S in più sul valore di... Vabbè, magari qualche commercialista ci aiuta a capire se questa tassa sulle fasce dell'ugandese è diventato italiano. Vabbè, non voglio addentrarmi oltre. Ziegler e Thunder, un grosso abbraccio ovviamente da Radio 24. Grazie a Peter. Saluto a tutti i miei concittadini di Parpo, provincia di Brescia. Ha intenzione di tornare? Ma naturalmente subito dopo la trasmissione vado. No, dico di tornare qui. Ah sì, tutti i giorni. Va bene. No, no, tutti i giorni no. Adesso, tutti i giorni è troppo. Il nostro Leonardo Manera, va bene. Cari ascoltatori, c'è Luca che ci chiama da Roma. Luca, buongiorno. Buongiorno. Senta, io ovviamente sono i soliti luoghi comuni, ma l'Italia non è cambiata da oltre 30 anni o quasi, perché io ho fatto un dottorato di ricerca nel 90 appena laureato. Diciamo che è un codice non scritto, cioè si sapeva che solo coloro che si erano laureati in quel dipartimento alla fine avrebbero vinto il concorso. 5 eravamo e 5 abbiamo vinto. Io dopo un anno sinceramente un po' schifato me ne sono andato, ma non è che mi ritengo un eroe, però il classico patto era: noi ti prendiamo il dottorato, guarda un po', le vostre tesi vengono usate dai professori del dipartimento come memoria ai vari convegni a nome del professore. Questo è un altro sottoproblema. Devo dire che lo spaccato di quando si tratta di questi temi è che gli ascoltatori raccontano tutti uno spaccato molto triste, caro Luca, come il suo. Il 49enne, che poi è il primo coetaneo, io ne ho 54, cioè subisce la stessa, ed era ovviamente un codice non scritto, cioè non è che c'era qualcuno che faceva la telefonata, come detto, intercettata. si sapeva che era così e io stesso per un anno ne ho usufruito sapendolo. Però esatto, certo la tristezza è questa, cioè di dovere, Luca, stare alle regole del gioco. Se vuoi stare in quel gioco, giochi così, questo è... Però a un certo punto me ne annunciava, non era più forte di me. Cioè... Ma infatti c'è chi stacca la spina, però la cosa che volevo dire, concludendo, è che tutti quelli che dicono, beh ma questo si sa da secoli, sì, però perlomeno questa volta c'è un'indagine in corso perché una persona è riuscita ad ingegnarsi a denunciare la cosa, utilizzando gli strumenti tecnologici che abbiamo, il cellulare, registrando, e quindi adesso c'è un'indagine comunque molto cospicua in cui quello che tutti sappiamo da sempre e con cui obbligatoriamente si collude, questa volta è stato reso pubblico, quindi è un fatto. Vediamo poi, Veronica, sai che queste indagini poi partono così, ma chissà poi dove però arrivare. Il solo fatto che ci sia un'indagine così corposa, chiaro, a prescindere dagli esiti che avrà, comunque fa sì che sia la prima notizia dei giornali. Cominciano così e finiscono in un garage. Vabbè. Con questa di Leonardo Manera noi ci fermiamo, ringraziando tutta la redazione di Funamboli. Scriveteci funamboli@radio24.it oppure 349-238-6666, ma soprattutto adesso scriveteci le mail. Intanto se mandate un messaggio adesso lo leggo nella trasmissione successiva, quindi vatti se ne frega. A fare l'aerosol. A domani alle 9. Donna, vuoi far accettare il pesce a tuo figlio che lo rifiuta costantemente in modo pedante e irritante? Allora proponigli di assaggiare i bastoncini del sottotenente, i bastoncini tipo capitano, ma con il più ampio strato di panatura e la più irrisoria quantità di merluzzo, ideali anche per essere accettati da chi odia il pesce. Bastoncini del sottotenente, fan contenti la mamma, fan contenti i bambini, fan contenti i merluzzi.